Parte terza. Leonid. Capitolo 23. Il velivolo è pronto al decollo, il muso puntato verso le stelle. La fusoliera ha i contorni di una goccia metallica, gialla nella parte superiore e nera sulla pancia. La coda termina a campana, simile a un grande clarinetto d'ottone. Sulle fiancate si succedono quattro piani alari di dimensioni crescenti. I primi tre sono semplici impennaggi e stabilizzatori. L'ultimo è un'ala dal profilo biconvesso. A prua, le due pale di un'elica, lunghe e sottili. Un annuncio stentoreo sciorina i dettagli del volo. L'uso di un paracadute non permette di scegliere il luogo dell'atterraggio, mentre la discesa con un retromotore, come suggerito da Tsiolkovsky, consuma molto più carburante di una semplice planata. Pertanto, il nostro Friedrich Kander ha progettato un razzo che prende quota e scende a terra come un aeroplano. Bogdanov osserva il prototipo in scala 1 a 100, appeso al soffitto dipinto di galassie. Accanto a lui Danny è rapita dall'oratore, che illustra ai visitatori le meraviglie della prima esposizione mondiale di apparecchi e macchine interplanetari. Porta i capelli corti, da soldato, e un filo di barba gli sporca le guance. Occhi neri, malinconici, gli angoli piegati all'ingiù. La voce è quella ormai adulta di Maurice Leitheisen, il ragazzino che a cuoccala dopo cena irrompeva nella stanza comune e, come favola della buonanotte, chiedeva dettagli sul funzionamento di un razzo. La guerra si è portata via suo padre e l'ha spinto a entrare in aviazione. Adesso si occupa di comunicazioni spaziali e di quando in quando scrive a Bogdanov per confrontarsi sulla tenuta di un motore o di una teoria dell'universo. Come se intorno ci fossero ancora le pareti di Villa Vasa a cullare le loro visioni. Raggiunti gli strati più alti dell'atmosfera, le ali si ripiegano, l'elica si arresta ed entra in funzione il reattore, che spinge il missile fuori dal campo gravitazionale terrestre. Come combustibile si sfruttano le parti del mezzo che sono inutili per questa fase del viaggio e che lo saranno anche al ritorno, visto il calo di peso dovuto al consumo di carburante. Superfici, travi e pali, costruite in una lega d'alluminio, bruceranno per reazione con ossigeno liquido vaporizzato. La novità dell'invenzione eccita il pubblico. Aumentano i bisbigli. Due uomini vestiti con strane tute litigano sui vantaggi dei propellenti ibridi. Una giovane donna estrae un taccuino e scrive calcoli a matita. Dietro di lei, il ritratto di Friedrich Kander spicca come l'icona di un santo, sopra un altare di cimeli aeronautici e ritagli di giornale, schemi di motore e circuiti elettrici, cianfrusaglie cosmiche e disegni di missili in sezione, incorniciati ed esposti con le relative etichette. Una galleria d'arte che arriva dal futuro. «La vostra tecnologia è molto più progredita di quanto immaginassi», esulta Danny sottovoce. «Un tempo anche le nostre aeronavi riempivano i serbatoi con il combustibile necessario per completare il viaggio. Poi abbiamo scoperto come spedire l'energia». Bogdanov fa girare l'elica di un modellino con un colpo di dito. «Spedire l'energia, strano concetto, come se fosse un biglietto d'auguri. È sempre istruttivo parlare di scienza con chi non conosce i termini adatti». Perché utilizza immagini quotidiane, cioè ragiona per sociomorfismi, e dal momento che tutto nell'universo è organizzato secondo gli stessi principi, non di rado coglie similitudini che il gergo degli specialisti nasconde alla vista. Intendi dire come il Sole, che spedisce la sua energia sulla Terra e riscalda le cose? No, esclama Danny, intendo spedire come si spedisce la voce. Però le radiazioni devono avere un'onda molto più corta, circa 15 centimetri. Noi le usiamo anche per cuocere il cibo. Il volto di Danny trabocca di entusiasmo. Snocciolare i dettagli del suo mondo fantastico la rende felice. Nel deserto d'affetti dell'orfanotrofio, i romanzi spaziali le hanno offerto rifugio. Deve aver divorato tutti i titoli che le capitavano a tiro, non soltanto Stella Rossa. Poi li ha mescolati insieme, ha creato una CUN e ci si è trasferita. L'unica differenza tra lei e Maurice Leitheisen è che lui non ha voluto sognare da solo. Ha preso le sue invenzioni di bambino e le ha rese compatibili con l'esperienza collettiva, cioè con la realtà. Danny non l'ha fatto perché i suoi sogni dovevano restare privati, inaccessibili agli altri, come un inespugnabile castello in aria. Il desiderio di conoscere il padre l'ha costretta a uscire, ma invece di adeguare la sua esperienza individuale a quella condivisa, cerca disperatamente di ottenere il contrario. Povera ragazza, è stata una buona idea portarla alla mostra. Qui può conoscere persone che sognano per stare insieme. Doveva chiudere in giugno, ma l'hanno prolungata, visto il grande successo, e dire che non la volevano nemmeno autorizzare. I viaggi interplanetari sono un argomento prematuro che induce nelle masse false aspettative. I promotori sono strani anarchici vegetariani. Gestiscono un ristorante dove si fa lo sconto ai creativi e agli inventori, talmente frequentato che con i proventi di un mese ci hanno finanziato l'intero allestimento. Danny contempla una riproduzione dell'impalcatura d'acciaio che l'americano Goddard ha costruito per il lancio del suo famoso razzo a propellenti liquidi. La targhetta spiega che si trattava di un cilindro di ferro lungo un braccio, volato per 3 secondi fino a un'altezza di 15 metri. L'informazione è scritta in 2 lingue, russo ed esperanto, dopo le quali si stende una riga di numeri e simboli matematici. «C'è un errore!» commenta Danny confusa. «Qui dice che questo Goddard detiene il record in altezza per un razzo a reazione. Record vuol dire il miglior risultato, giusto? Non può essere 15 metri». Bogdanov la invita a seguirlo. «Vieni, ti presento un amico». Leitaisen ha terminato la sua prolusione e per parlare con lui bisogna mettersi in fila. Dietro a Danny si accodano i 2 litiganti in tuta. Hanno smesso di discutere di propellenti e ora si concentrano sul proprio abbigliamento, studiato apposta per le stazioni sovietiche su Marte. L'uomo che li precede regge un vasetto, dal quale spunta timida una pianta di fagiolo. Quando arriva il suo turno, lo consegna a Leitaisen pieno di orgoglio. «Coltivazione al chiuso», spiega, «un modo per produrre cibo durante i viaggi interplanetari. Al posto del sole ho piazzato lampade a vapore di mercurio, mentre come sostrato ho usato carboni sbriciolati, che sono 3 volte più leggeri del terriccio». Leitaisen si gira il vaso tra le mani, con sincero interesse. Contempla il pallore delle foglie, esamina una manciata dell'humus prodigioso. «E per nutrirla?» «Escrementi!» si illumina l'inventore. «Miei, della mia famiglia e di 4 vicini. Per simulare i numeri di un normale equipaggio di razzonauti, niente acqua, solo urina». Con una smorfia, Leitaisen lascia cadere la poltiglia nera che stava analizzando. Il vaso torna tra le braccia del proprietario, che lo accoglie come un cucciolo bisognoso di cure. Si congeda commosso, consegnando a Leitaisen un biglietto da visita per essere coinvolto nella costruzione di serre sulla prossima astronave in partenza per lo spazio. È il turno di Bogdanov. Porge la mano per salutare, ma l'altro si pulisce le dita sui pantaloni e lo sorprende con un abbraccio. «Non speravo più che sareste venuto. Che ve ne pare della mostra?» «La parte scientifica è stupefacente», si complimenta Bogdanov. «Ci sono i progetti più importanti. La sezione letteraria è un po' streminzita, a dire il vero. Soltanto Verne e Wells». «Avete ragione, avremmo dovuto metterci anche Bogdanov», dice Leitaisen con malizia. Ridono, mentre Danny rimane seria. «Ti presento Danny», dice Bogdanov per coinvolgerla. «È la figlia di Leonid Volok, ricordi? Un compagno dei tempi di Kuokkala». «Il nome mi dice qualcosa». Una pausa. «Era quel tipografo di Kaluga che conosceva tutti i racconti di Poe?» «No, un operaio di San Pietroburgo, ma non ha importanza. Danny è ospite da me, qui a Mosca. Si tratterrà per qualche mese e non conosce nessuno. Volevo metterla in contatto con il vostro gruppo. Credo le farebbe piacere partecipare alle riunioni. È un'appassionata lettrice di libri sui viaggi spaziali e poco fa, mentre parlavi, mi ha fatto un'osservazione a proposito del carburante». La ragazza capisce che è il suo turno di parlare. «Finché stiverete sul razzo tutto il carburante necessario al viaggio, non andrete lontano», dice in un fiato. «Ah, certo», conferma Leitaisen con enfasi eccessiva, come si fa per lodare un bambino quando scopre una verità risaputa. «Proprio in queste settimane, Kander e io stiamo sviluppando un sistema di specchi per concentrare l'energia del sole e trasformarla in propellente». Danny si morde il labbro, come se la bocca fosse sul punto di parlare contro la sua volontà. «Una vela funzionerebbe meglio», dice alla fine, «e non avreste bisogno di trasformare l'energia». «Una vela? E cosa la gonfierebbe? Nello spazio non c'è vento». una vela per il sole. Se una grande superficie assorbe la luce da un lato e la riflette dall'altro, si crea una differenza di pressione e quindi una spinta. Ma siccome non c'è sempre un sole alla portata, è meglio sfruttare l'energia del nulla. Quella è ovunque, lo spazio vuoto ne è pieno. Leitaisen accoglie la notizia sollevando appena le sopracciglia. La sua pazienza è ammirevole. I miraggi di cosmofili e missilisti sono il suo pane quotidiano. A parole tutti gli scienziati sostengono la necessità di divulgare i progressi delle loro discipline, ma pochi sono capaci di farlo senza mettersi in cattedra, rinforzando la barriera che dicono di voler abbattere. «Il vuoto è pieno?» domanda con l'interesse che aveva da bambino. «Proprio così», spiega Danny. «Ma è difficile accorgersene, perché è come un suono che abbiamo nelle orecchie fin dalla nascita. Eppure c'è abbastanza energia, qui nel mio pugno, per far bollire i fiumi della Russia. Basta saperla catturare». «Molto affascinante. Se verrete alle nostre riunioni, mi piacerebbe davvero approfondire. Ora, scusate». Bogdanov si volta. Ci sono già in attesa altre 5 persone, con rotoli di carta sotto braccio, modellini di razzi, libri, brogliacci e misteriose scatole di latta. Ringrazia, saluta e con una leggera spinta sulla schiena invita Danny a farsi da parte. Mentre si allontanano, coglie brandelli di conversazione sulla melonite detonata in aria compressa, i mesi necessari per raggiungere Venere e il peso ideale del missile che verrà presto messo in orbita intorno alla Terra. Nella stanza accanto, 3 grandi manifesti riportano i versi di una poesia. Il primo è in russo, il secondo in esperanto, il terzo è la solita sequenza di numeri e simboli matematici. Il titolo recita «Dedicato all'inventore». L'autore è un certo Sergeevich, mai sentito. «Tu fai svanire le distanze, tu fai svanire notte e giorno, tu cambierai l'universo e spazzerai via la natura». Bogdanov si ferma dopo le prime righe. Celebrare gli inventori è un insulto alla cultura proletaria. L'individuo non è importante di per sé, ma in quanto il suo talento arricchisce la collettività. Non saranno i singoli scienziati a spazzare via la natura. È l'umanità intera che si organizza da millenni per quell'obiettivo. Nessun organismo può sopravvivere senza espandersi a dispetto dell'ambiente. È una legge tecnologica. La conservazione è un equilibrio dinamico. Ogni cambiamento nell'ambiente è bilanciato da un cambiamento nel sistema. Ma questa armonia non è mai perfetta. Prima o poi si verifica sempre un'alterazione più drastica che mette in crisi gli assetti consolidati. Lasciata al caso, è molto difficile che una simile trasformazione sia favorevole al sistema. Pertanto, occorre giocare d'anticipo, assimilare l'ambiente in modo che le sue resistenze negative si scontrino con un maggior numero di attività opposte, messe in campo dall'organismo. In una parola, sviluppo. Prima conquistare la Terra, poi lo spazio profondo. In un angolo della stanza si staglia il busto di Tsiolkovsky. Circondato dai suoi libri, dai suoi disegni e da una stampa in caratteri cubitali della sua Equazione del razzo, omaggiata come l'atto di nascita dell'era cosmica. Subito a fianco si apre la cappella votiva di Kibalcic e dalla parte opposta quella di Polevoj, l'uomo che ha costruito modelli a reazione di qualunque veicolo immaginabile: treni, auto, slitte, navi, sommergibili, cingolati, tricicli, mongolfiere. Il quarto angolo è dedicato al linguaggio interplanetario AO, che si rivela essere la terza lingua nei cartelli della mostra. Un codice basato su assiomi e operazioni grammaticali, con 11 simboli, 7 prefissi e 9 morfemi, la lingua ideale per comunicare con gli alieni. Al centro dell'ultima sala, Danny è attirata da un grande cannone che mira il soffitto con un angolo di 60 gradi. Dalla bocca spunta l'ogiva di un proiettile, ma invece di essere in metallo opaco, è formata da 4 vetrate trasparenti. Il bersaglio dell'arma sono i crateri della Luna, riprodotti in cartapesta. Sul tavolino accanto, esplosi e spaccati prospettici mostrano come 4 individui possano alloggiare all'interno della nave pallottola. «Davvero pensate di arrivare così sulla Luna?» si stupisce Danny. «Non c'è una gran differenza tra sparare un uomo dentro un proiettile e sparargli con quel proiettile. I viaggiatori resterebbero spappolati per via della forza d'inerzia», conclude Bogdanov. «Sì, è un problema noto. Infatti questa navicella non è mai stata costruita, come le altre che hai visto. Ma mentre alcune potrebbero esserlo in futuro, questa è un'invenzione letteraria del passato. Non hai letto Jules Verne, Dalla Terra alla Luna? In quel libro l'autore non si è posto il problema dell'inerzia e di come controllarla. Io invece in Stella Rossa ho risolto la questione, almeno in linea teorica. Beh, non proprio, si azzarda a dire Danny. Bogdanov arretra di un passo e con gesto plateale appoggia le mani sui fianchi. Ah, davvero? Dice impettito. Sentiamo, cos'ha che non funziona la mia eteronave? Immagino sia stato Leonid a dirti che le nostre navi viaggiano grazie all'Omiron, attacca Danny, la materia negativa. Non ricordo, ammette Bogdanov, ma certo non aveva idea di come funzionassero. Così l'ho chiamata materia minus, pensando che avesse gravità negativa e che annullasse il peso del veicolo, di modo che un motore a energia nucleare potesse spingerlo senza fatica. Molto ingegnoso, si congratula Danny, solo che l'Omiron non ha affatto gravità negativa. Cade per terra, come la materia normale. Però, se mette a contatto l'uno con l'altra, si disintegrano a vicenda, producendo una grande energia. Un chilo di materia e uno di Omiron sono 4 miliardi di volte più efficienti di un chilo di combustibili fossili. Conclusione ideale del tipico sproloquio da razzo maniaco. Calcoli con 9 zeri, numeri inconcepibili, infiniliardi di energia. Eppure, per quanto strampalati, i discorsi di Danny sono infarciti di concetti che non ci si aspetterebbe da una ragazza cresciuta in orfanotrofio. Durante guerre e stravolgimenti sociali, e nemmeno da una semplice lettrice di romanzi interplanetari. Non sapevo fossi appassionata di fisica. Chi te l'ha insegnata? La ragazza non si fa prendere in contropiede. Su Nakun non facciamo distinzioni tra fisica, biologia, letteratura. Studiamo tutto allo stesso modo. Bogdanov non ribatte, si avvicina a una navicella spaziale. È la ricostruzione di quella descritta da Wells nel suo romanzo sulla conquista della Luna. Una sfera di vetro rivestita da un'armatura opaca, divisa in spicchi quadrati e triangolari. «C'è una cosa che Leonid non mi ha saputo spiegare», dice Bogdanov a bruciapelo. «Se Nakun non si trova nel nostro sistema solare, allora deve essere distante anni luce dalla Terra, il che vuol dire anni di viaggio, visto che nessun oggetto può andare più veloce della luce». Come ha potuto visitare quel pianeta e tornare sulla Terra in soli 7 mesi? Ha preso la scorciatoia? Anche stavolta una risposta pronta, come se Danny avesse già messo alla prova le possibili incoerenze della sua pseudologia. Continua, la invita Bogdanov, pronto per un'altra storia dello spazio siderale. Se vuoi volare da qui fino al capo opposto della Russia, la rotta più breve passa vicino al Polo Nord, giusto? Sì. Però se hai una mappa piatta della Terra, invece di un mappamondo, puoi pensare che il tragitto più veloce sia la linea retta che unisce i due punti e attraversa tutta la Russia. Mentre sulla Terra, che è tonda, le linee rette non esistono, sono tutte curve. Corretto, concede Bogdanov. Anche lo spazio siderale è tutto curve, continua Danny, ma le vostre mappe lo raddrizzano. Se invece hai la mappa giusta, allora puoi tracciare la rotta più breve, tagliare le curve. Una scorciatoia, conclude Bogdanov, battendo le mani divertito. La ragazza ha davvero pensato a tutto. Il suo sistema è stabile, ben organizzato contro gli attacchi dell'ambiente esterno. Nessuna verità oggettiva può scalfirlo, perché la verità oggettiva si costruisce lavorando insieme, e Danny è sola nel suo universo, almeno per ora. Vieni, le dice, è ora di tornare a casa. Dice casa. Non istituto, e deve essere la prima volta che usa quel termine con lei. Si dirigono all'uscita, passando tra i modelli esposti. I diversi razzi sembrano rivelare la provenienza dei loro progettisti. Quello di Max Valier, sud tirolese, è un fuso di metallo e volontà tedesca, con due ali tozze simili a braccia, ognuna terminante in un missile aguzzo. L'astronave di Fedorov è una balena di latta, piena di misteriosi diverticoli e trombe estroflesse, che ci si immagina navigare malinconica e russa verso altre galassie. Il siluro lunare di Goddard è un proiettile gigante, senza fronzoli, pragmatico e yankee. I velivoli di Snolperteri sono farfalle di eleganza francese, mentre il razzo a 4 stadi con motore a doppia reazione dell'italiano Gussalli, è barocco a partire dal nome. A due passi dalla porta, su un palchetto di legno, il libro degli ospiti attende una firma. Prima di mettere la sua, Bogdanov controlla il frontespizio. Non si sa mai. Lista d'attesa per il primo viaggio sulla Luna, organizzato dall'Associazione Inventori, sezione interplanetaria. C'è scritto in russo, esperanto e AO. Bogdanov scrive le sue iniziali, A, B. Danny raccoglie la matita e aggiunge il suo nome subito sotto. A quanto pare, Nakun ha pure il suo alfabeto.